era stato convocato per Luigi Pardo ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci sono molti allenatori bravi, molte squadre che giocano con la palla a terra, per cui fin da domenica voglio vedere dei segnali come ho visto oggi, e per me sarà un grandissimo piacere assistere a una gara della Roma da quella panchina con il nostro pubblico presente, perché il nostro pubblico deve essere presente. Fisicamente stiamo tutti bene, oggi l'hanno fatto vedere, non c'è alibi. Dopo l'allenamento di oggi non voglio più sentir parlare nessuno di problema fisico, sia dei giocatori sia dello staff, perché non c'è problema fisico. I giocatori stanno bene, oggi hanno sviluppato un allenamento lungo, di grande intensità, seduta doppia perché stamani si sono allenati col preparatore, per cui questo è appurato, un dato di fatto. Noi abbiamo bisogno del nostro pubblico. Il nostro pubblico al nostro fianco diventa una spinta fondamentale. Non possiamo fare a meno di loro, loro lo sanno, per cui tutti insieme a noi. E ti posso prendere per la mano e correre nella vita di ogni giorno che mi riporterà tra le cose vere con te. Bentornato, Luis. Grazie. Forza Roma. Vabbè, dal violino di Garcia alle fanfare per il ritorno di Luciano Spalletti. Ciao Giovanni Capuano. Ciao, ma secondo me è altro che violino. possiamo dirlo, per carità, era l'intervista sito ufficiale alla TV della Roma, però possiamo dire che Spalletti ha iniziato in maniera un po' paracula. Prima cosa, la squadra sta benissimo, eh. Preparatori di Mister Pallotta sono bravissimi, quindi non corrono. Hai sentito ieri cosa dicevano i tifosi? Fai core! Sì, quindi il tema è questo. Allora, se è vero che la Roma ha preso, non mi ricordo la statistica, ce l'aveva citata Roberto Renga, comunque tre quarti dei gol nel secondo tempo, con dei cali di prestazione oggettivamente imbarazzante, i temi sono due. Se era solo un problema di testa, e quindi hanno ragione Pallotta e a questo punto Spalletti che ci ha messo il timbro con grande entusiasmo, la Roma è ancora una candidata per lo scudetto. Se invece aveva ragione Garcia, noi dovremo poi dire con grandissima onestà, ma dovrà farlo Spalletti, non noi che facciamo gli osservatori esterni, che per la terza volta in un anno aveva ragione Garcia, avevano torto gli altri. Sì. Garcia un anno fa chiedeva in fretta un attaccante e Sabatini gli ha fatto il mercato negli ultimi giorni, come i giorni del Condor, portandogli tra l'altro due, di cui uno stava male, Ibarbo, e l'altro non era in condizione, Dumbia. Garcia quest'estate chiedeva con forza due centrali difensivi, perché evidentemente aveva capito che Castan non era in grado di riprendere subito, e Sabatini gli aveva portato Giomber. Poi Garcia ha pagato per tutti, ed è anche giusto da un certo punto di vista, però è la terza lettura che Garcia fa diversa rispetto agli altri. Bisogna vedere se la squadra credeva ancora in Garcia, questo può essere. Però le gambe o ci sono o non ci sono. Però non sono così sicuro che la squadra credesse ancora in lui, ma poi approfondiamo il discorso. Senti, qualche sondaggione del venerdì, un venerdì da vigilia di una giornata che ci promette tre partite anche interessanti, Atalanta-Inter, poi sentiamo le voci di Mancini e di Sarri, perché giocheranno Atalanta-Inter, altro grande ritorno settimanale, non solo Spalletti ma anche Immobile a Torino, domani potrà già essere in campo contro il Frosinone, anzi dovrebbe essere già in campo con la maglia numero 10 contro il Frosinone in casa, e poi Napoli-Sassuolo, e attenzione perché il Sassuolo si è guadagnato sul campo un grande vantaggio, quello di potersi divertire oltre a giocare un grande calcio. E poi è una squadra che fin qui le grandi le ha ammazzate, perché ha battuto l'Inter, perché ha battuto la Juventus, perché ha fatto soffrire il Milan a San Siro, quindi domani è una partita tutt'altro che scontata. Oggi c'era un giornale, credo Repubblica, che diceva il bel gioco all'italiana, torna Napoli-Sassuolo. Sommessamente ricordiamo che nel Napoli di italiani ce n'è uno, Insigne. Questo per dire che noi spesso questa cosa la apriamo come tema sulla Fiorentina, sull'Inter. Però anche innamorarsi di questo tema del bel gioco all'italiana per il Napoli mi sembra un tantino eccessivo. Continuo a fare la solita differenza tra giocatori bravi e giocatori scarsi. No, ma io sono d'accordo con te. È che passaporto, basta che sia regolare e non fasullo, va bene, secondo regolamenti. Qualche bel sondaggione del venerdì: vi piace la minestra riscaldata? Vabbè, in generale sì, nel calcio molto meno, che di solito non funziona. Poi un altro: 82 punti bastano per lo scudetto? No, ma questo tema è due mesi che ci misuriamo e devo dire la verità, a questo punto ci siamo anche esposti, quindi se lo scudetto verrà vinto sotto gli 84-85 facciamo una figura che levati, andiamo tutti in vacanza. A proposito di vacanze potete già prenotarvi quelle estive. Il 21 agosto comincia il prossimo campionato, che terminerà il 28 maggio, mi sembra un lasso di tempo considerevole. Mentre aspettate un attimo per le prossime vacanze di Natale, perché ancora non si è capito se ci sarà questa rivoluzione copernicana del calcio in campo come in Inghilterra o come accade negli sport americani ad esempio nei giorni delle festività, oppure se rimane tutto così e si va in vacanza alle Maldive, almeno loro vanno in vacanza alle Maldive, noi meno. Altro tema, ma ci crede davvero che Real Madrid non farà il prossimo mercato estivo? Ma guarda, no, tra l'altro poi so che ne parliamo e approfondiamo con il massimo esperto di cose spagnole, però io oggi, stimolato dal nostro Giorgio De Luca, ho ricostruito la vicenda del Barcellona, e il Barcellona impiegò 9 mesi per arrivare alla sentenza definitiva e vedersi togliere la sospensiva, quindi... Sintetizzando di cosa stiamo parlando, cioè il Real Madrid farà serenamente ricorso. Mercato quest'estate, farà come il Barcellona nell'estate del 2014, comprò 8 titolari praticamente, cioè fece 2 o 3 sessioni di mercato in una, comprò Rakitic, Suarez, 2 portieri, Mathieu, Vermaelen, cioè comprò, rifece la squadra, e credo che così farà anche il Real Madrid, il che significa, perché poi a noi che siamo in Italia ce ne frega niente del mercato del Real Madrid, l'unica cosa che ci interessa è capire cosa succede di Morata, che è il link tra il Real Madrid e il calcio italiano. Beh, sarà interessante anche vedere cosa Cristiano Ronaldo. Sì, però questo è da appassionati, capito? Di Morata succede semplicemente che tra 3 mesi si siederanno al tavolo, chiederanno a Morata cosa vuole fare. E si arriverà immediatamente a una soluzione. 25 costa, no? Costerebbe Real Madrid. Costa 30 nell'estate del 2016 rischiato. E poi, diciamo, in Spagna gira la voce 35 nel 2017. Il comunicato ufficiale della Juve recita 30 e basta. Però, insomma, 30 o 35 che siano, il Real ha queste due finestre, 2016 e 2017, per riportarlo a casa. Sì. La verità è che la squalifica, ammesso che i ricorsi diciamo vengano tutti respinti, riduce la finestra a una, quella della prossima estate, e probabilmente sarà quella della prossima estate. 800 24 00 24 è il numero verde. Filippo Aureggi oggi in regia, ovviamente Giorgio De Luca il nostro autore, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo subito dopo le informazioni per chi è in viaggio. Tutti convocati. Tutti convocati. È una domanda su WhatsApp 349-238-6666, vale anche per i messaggi, come sapete. Quanto durerà il quadretto idilliaco Spalletti ultra AS Roma? Non lo so, potrebbe durare beh, un po', io sono curioso. Intanto vediamo se domenica vanno allo stadio. Esatto, secondo me questo è il primo tema importante. Saluto il direttore Paolo Liguori. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti voi. Era solo questione di tempo veder partire Garcia con il suo violino, destino scritto, peraltro anche a zampe di gallina, come si diceva una volta. Garcia è stato esonerato virtualmente quest'estate, esatto, prima dell'inizio, a luglio. Esatto. E tutto il resto è stata una grande fatica, perché rimuovere uno così bravo, insomma, è difficile, ci vuole il concorso di buona così stampa. Così bravo, vuole... così costoso. No, così bravo, ci vuole il concorso. Ma poi quando sarà che premieranno Garcia con un'altra squadra, come già noi a Roma abbiamo visto con Luis Enrique? Sì. Sarebbe a Roma viene trattato da cretino pure con Mourinho. Enrichetto. No, pure Mourinho viene trattato da cretino, quindi non ci dobbiamo scandalizzare. Teniamo presente che Luciano, che io stimo tantissimo e che non lo stimo meno di Garcia, anzi lo stimavo anche quando fu costretto ad andare via, perché si era accorto a fine del campionato precedente di essere diventato il capro espiatorio unico degli umori della solita, del solito ambiente che è composto da giornalisti, tifosi, radio, ultra, eccetera. Era diventato il capro espiatorio senza società alle spalle. Alla seconda giornata, quando ha perso la Juve, se n'è andato e ha lasciato anche lo stipendio, con un gesto da gran signore. Un gesto che non ha fatto, Zeman, secondo me giustamente, perché è legittimo, e che per ora non ha fatto Garcia, che però insomma credo che non costerà alla Roma molto oltre giugno, insomma, sì, possiamo dire una cosa su Spalletti, che adesso torna da salvatore della patria, per carità, è un grande allenatore in Russia, ha fatto benissimo, quindi evidentemente è un profilo importante, ma nei 5 anni quanti ne ha fatti direttore a Roma? Lui viene ricordato al di là della Coppa Italia perché è arrivato 2 volte secondo, dimenticando che una delle 2 volte è, diciamo, nel campionato più anomalo degli ultimi 100 anni della Serie A, cioè quello senza la Juve, con mezza Serie A penalizzata, e lui arriva a 22 punti dall'Inter, quindi tu non dici no, perché Di Garcia, no, però, in questi giorni di revisionismo, aspetta, io non faccio revisionismo su Garcia, ho scritto sempre in sua difesa, dicendo sempre che era il capro espiatorio di responsabilità di cui lui era l'ultimo responsabile. Scriverò ancora domani, salutando Spalletti con affetto, che Garcia per me resta un buonissimo allenatore e un grande uomo. Ho letto la sua biografia, quando ho letto la sua biografia io sono stato fulminato dall'uomo Garcia, rimango adesso un suo ammiratore, lo seguirò all'estero, dove sarà, però ecco, diciamo che quei 2 campionati di Spalletti, quello che dicevi te, a 22 punti all'Inter, si può tranquillamente compensare con quello successivo, che io penso meritato di più dalla Roma, e penso che si concluse con quel immeritatissimo e costruito pareggio a San Siro, che se fosse stata come poi potete andarlo a rivedere quella partita, se fosse stata come era ovvio una vittoria con l'espulsione che ci doveva essere di un giocatore dell'Inter, per curiosità andatevela a rivedere, così poi il famoso 1-1 finale di Zanetti. No, però il mio revisionismo era su questo, era della Roma, quindi sì, il mio revisionismo, direttore, era su questo, cioè che a Garcia in queste ore viene detto è vero che è arrivato secondo, ma è arrivato secondo a 17 punti dalla Juve, in un campionato senza le milanesi, e col Napoli che si suicidò. Allora attenzione, perché oggi che viene esaltato Spalletti, dei secondi posti di Spalletti magari andrebbe anche ricordato questo. Quello meno 22. Sì. Però sapete una cosa, voi avete chiamato me proprio perché sapete come sono fatto e come la penso. Io di quello che viene scritto 5 minuti dopo dell'esonero di Garcia, proprio non lo guardo neanche, perché l'Italia... in Italia siamo campioni del mondo a salire sul carro del vincitore, e questo si sa, ma anche a insultare il perdente anche quando non ha colpe, e questo lo sappiamo anche. Noi siamo abituati a schernire chi scappa, no? Cioè siamo come quei cani un po', come si dice, un po' vigliacchi, che se tu ti volti ti mordono, ma se tu li affronti di persona non lo fanno, perché sapete com'è questo ambiente. Sì. L'ambiente di Roma poi è un ambiente fatto così, perché ho visto maltrattare tanti allenatori a Roma, hanno vinto solo Lidl e Capello, che sono al di fuori del mondo normale. Uno era, quando è arrivato la seconda volta, un santone, un guru, una cosa straordinaria, cioè che raccontava qualunque cosa e tutti prendevamo dalle sue labbra. L'altro, un sergente di ferro, un mastino abituato a comandare grandi giocatori, era quello che... che era abituato a farsi comprare giocatori, certo, incredibili, che era quello che affrontava il cane di Petri. Sì, però posso dire una cosa, direttore, io non so come la pensi tu, però ad esempio non credo che mai Capello si sarebbe prestato dopo due ore di allenamento sotto la pioggia intense, tutto quello che vuoi, a dire sia chiaro, io da oggi non voglio nemmeno più sentir parlare della questione condizione fisica. È evidente che ha ragione il presidente, perché questo dice Spalletti, eppure insomma gli occhi ce li abbiamo tutti, cioè che la Roma smettesse di correre, ecco, non è un po' aziendalista Spalletti lì? Cioè io fossi un tifoso della Roma un po' mi preoccuperei. Ecco, qui c'è un punto debole che io sono tifoso della Roma e mi preoccupo, e non sono così offuscato da non vedere le cose che hai detto te. Qui al mio amico Luciano, e lo dico seriamente, io l'ho chiamato molte volte dopo che abbandonai in quel modo, e ho scritto ancora molte volte della necessità terribile, della circostanza terribile che ha portato la Roma a privarsi di uno come Spalletti. È una vergogna, una vigliaccata praticamente gli è stata fatta in tanti modi. Però al mio amico Luciano dico sinceramente e di cuore, attento alla condizione atletica, perché il suo gioco, che io ricordo a memoria, era formidabile quando tutti gli uomini in campo correvano come demoni. Vi ricordate il Perrotta di Spalletti, no? Ve lo ricordate? Ma quando calava la condizione fisica, il suo gioco diventa un gioco troppo facile per l'avversario. Sì, diventa molto stucchevole come la vaniglia. Credo su questo sono abbastanza... Ma lo sa pure lui. Sì, infatti lui, quando sono andato a parlarci qualche volta, poi gli feci anche una lunga intervista su questo, mi diceva che non dovevo sottovalutare quello che lui diceva, che bisognava creare questo spirito di sacrificio, di lavoro, di squadra, di sudore, ancora più di Garcia. Lui è legato a questa roba qui, assolutamente, molto di più. Assolutamente. È quasi un fanatico della condizione atletica. Un'ultima cosa, direttore, ma tu come ti aspetti che risponda l'Olimpico domenica pomeriggio alle 3 contro il Verona? Guarda, io spero che sia servito almeno a questo l'esonero di Garcia, che tutti facciano finta, una finzione, una messa in scena di dire, beh, possiamo far accantonare i veleni e tornare all'Olimpico, perché se così non sarà la situazione diventa tanto grave, mm-hmm, che secondo me non è più nemmeno una questione sportiva, certo, ma dovrebbe essere una questione che riguarda la società e molto molto tutte le forze sociali che ci sono a Roma, perché guardate che il clima all'Olimpico, io che sono da non ve lo devo dire, sono più di 50 anni che seguo la Roma in casa e in trasferta, io non avevo mai visto, infatti sono convinto che non sia un'occasione calcistica, io non ho mai visto né sentito fischiare la Roma nel momento in cui si qualifica per un turno di Champions. È impensabile nella testa di un tifoso come me. Noi abbiamo sostenuto la maglia e la squadra in condizioni di pre-retrocessione, certo. Noi siamo andati a Bergamo a sudare e a soffrire con Bruno Conti, con Rosella Sensi, con Pradè, prima di Spalletti, siamo andati ed eravamo sull'orlo di finire al terz'ultimo posto. Io ricordo queste trasferte, ricordo queste sofferenze, ricordo tutto, e quindi è vero, mi direte, quei tifosi là ce ne sono di meno, quelli di adesso sono nati dopo, d'accordo, però esiste uno spirito che comunque c'è a Roma, c'è nella città, non riguarda solo la Roma, ma anche la Lazio, che ha lo stesso spirito, il tifoso laziale, e che non va, che fischia. Io sono preoccupatissimo. Sì, intanto la notizia la diamo, Bologna-Lazio, perché poi si lega, vietata ai tifosi della Lazio per questione di sicurezza, perché poi molto di quello che sta succedendo a Roma discende da queste cose qui, direttore, al di là poi dell'antipatia per Lotito e della Roma che gioca bene o meno, o Garcia che ha avuto i suoi problemi con i tifosi. No, c'è qualcosa di inspiegabile, perché tutte e due le tifoserie all'unisono e di comune intenzione sostengono che allo stadio Olimpico non ci debba essere sorveglianza nelle curve, un certo tipo di divisione, mm-hmm, che permette di sorvegliare, e nel 2016 quando c'è sorveglianza perfino per fare la cosa. È una questione che riguarda tutti noi, non riguarda solo Roma questa. E allora, certo. Ed è per questo che dico, non è una questione calcistica questa. Grazie direttore. Prego. Grazie mille direttore Paolo Liguori. Ringrazio a voi, grazie. Allora Giovanni, ascoltatori, facciamone uno prima della, sentiamone uno prima della borsa. Andrea, provincia di Forlì. Buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono alleno le giovanili del Forlimpopoli, da voi citato più di una volta, mi sembra, da Luca Telese, giusto, sì. Quello. Non giochiamo solo in difesa, ecco questo, mi premeva dirlo. E comunque sono tifoso dell'Inter, ma io vorrei fare un bel trapianto sano di centrocampo, cioè centrocampo della Roma nell'Inter. Vinciamo facile. Centrocampo della Roma è una cosa, cioè è uno dei più forti d'Europa probabilmente. Sì, in condizioni normali. Poi credo che la Roma farebbero il trapianto di attacco-difesa e anche del portiere. E forse anche Spalletti lo farebbe. Tra l'altro c'è un altro tema, ci sono altri due temi che sono delle curiosità, io le butto lì. Perché a Spalletti compreranno uno o due difensori e a Garcia, che li chiede da quest'estate, stavano comprando Perotti dei Sharawi? Non è che forse cambia, insomma, i rapporti di forza al di là delle valutazioni tecniche, vista, perché non era mica scemo Garcia. Assolutamente. E il secondo tema è questo. Tutti noi siamo innamorati del 4-2-3-1 di Spalletti quando giocava bene, al di là dell'intensità e della condizione atletica. Io vi ricordo che quel 4-2-3-1 aveva sugli esterni di fatto dei difensori, cioè Taddei e Mancini, cioè giocatori capaci di fare tutta la fascia. Ora ce li vedete Gervinho e Salah? No, a parte che Gervinho parte, Salah non di sicuro. Salah è un attaccante, è praticamente un attaccante puro. Comunque, Germano, provincia di Macerata, stia lì. Sentiamo la borsa, così rispettiamo il timing. E torniamo subito, ci sarà anche Pardo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Tutti convocati naturalmente, compreso Giovanni Capuano che è qui con me e che ci condurrà nella domenica del villaggio di Radio 24 dalle 17 alle 19. Sta per arrivare Pardo, faremo un salto a Madrid, perché chi crede davvero che il Real non farà mercato la prossima estate? Io no. Germano, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo fare una considerazione sulla Roma. Sì. Io credo una cosa, che sia un problema societario della Roma, perché Garcia ha chiesto determinati giocatori e non è stato mai accontentato. Sì, ora sì. Arriva Spalletti e casualmente i giocatori sono in perfette condizioni, quando il secondo tempo di Milan-Roma è stato... No, che siano in perfette condizioni lo vedremo. Abbastanza penoso, sì. Io parlo da persona priva della vista. Sì. Ascolto le cronache, le radio cronache, sì. Anche in TV, su Sky oppure sulle radio nazionali, uh-huh. Però qualche dubbio mi sorge che ci sia qualche problema societario. Beh, che ci sia qualche problema societario, insomma, io ne ho quasi la certezza, cioè, quantomeno nella conduzione, nell'organigramma della società Roma, ma basta guardare come sono andate le cose per questo ritorno di Spalletti fuori tempo, perché se cambi allenatore lo cambi durante la sosta natalizia, come è normale che sia, lo cambi in un altro modo, se sei proprietario, prendendo un aereo e venendo qua, non facendogli attraversare il mondo mentre Garcia stava ancora dirigendo gli allenamenti mattina e pomeriggio, esonerato. Di fatto già esonerato, questo poi torna, viene annunciato, va in campo. Andrea Zoli, me lo ricorderete, sarà il vice di Spalletti, lo ha comunicato la società, quindi questo era un ritorno in qualche modo atteso. Quanto al resto, caro ascoltatore, era quello di cui io e Giovanni discutevamo durante la borsa, e cioè Garcia poteva chiedere i difensori gli compravano gli attaccanti, adesso a Spalletti compreranno un centrale e un esterno di destra, come normale che sia. Mentre fosse rimasto Garcia si sarebbe trovato El Shaarawy e Perotti, quindi overbooking al capitolo esterni d'attacco. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Come va? Bene. Ma tu ci credi? Allora, i casi sono due: o la prossima estate Real Madrid fa mercato, o io, come dicevo ieri, sono sinceramente e seriamente preoccupato per Florentino Perez. o gli troviamo un resort, magari sulla Luna, per passare l'estate, o questo diventa ogni passo, giorno ce n'abbiamo una. Cioè, quante, cioè, guarda con che frequenza sei costretto a chiamarmi per qualche problema al Real Madrid. C'è il centro del mondo, dai. Va benissimo, però è incredibile, eh. Quest'anno quelli stanno infilando una dopo l'altra. Ieri, no, sembra la Roma. Sembra la Roma. Sì. Prima De Gea che non gli arriva il fax. Sì. No? Poi il caso Cheryshev, buttano fuori dalla Coppa. En passant perdono 4-0 un classico. Poi cacciano l'allenatore. Adesso gli tolgono il mercato. A tutta Madrid, peraltro, sì, Real e Atletico. Madrid. Ma ascolta, allora cerchiamo un resort sulla Luna per Florentino Perez, oppure Real Madrid farà mercato nella prossima sessione? Anche estiva. Qui è bellissimo, perché ieri poi dopo loro si presentano in conferenza stampa, tutti belli tronfi, e dicono: no, un errore, tutto a posto, noi mercato lo facciamo. Mm-hmm. E uno dice, li ascolta e dice: no, perché è un errore sicuro, no, la FIFA si sarà sbagliata. Però intanto Barcellona è stato fermo un anno e insomma io non vedo, è chiaro che quando sei nell'otto dei giocatori che portano alla squalifica ci sono i figli di Zidane, è chiaro che lì l'errore c'è, perché questi abitano a Madrid dal 2001, per cui sì, tanto trasferiti non sono stati. Certo, però ce ne sono altri 37 però, di casi. Di esatto, però ci sono altri casi. No, però Filippo, al di là, perché diamo per scontato che così come il Barcellona, che si diceva sicuro, la Masia, il posto più bello del mondo, magari hanno anche ragione, anche il Real Madrid perda tutti i ricorsi che farà e quindi alla fine si debba prendere questi due mercati bloccati. Il tema è che così come il Barcellona, col gioco dei ricorsi e delle sospensive, in estate farà il mercato. Adesso non giriamoci però, troppo intorno. Ha un gap rispetto al Barcellona di più di tre mesi. Due mesi e mezzo. Guarda, oggi l'ho ricostruita. Il Barcellona fu squalificato il 2 aprile del 2014. Esatto, però la sentenza definitiva del TAS, quindi il secondo ricorso, arrivò il 31 dicembre, il 30 dicembre del 2014. Vabbè, tempo, stiamo parlando di nove mesi. Nove mesi vuol dire che il Barcellona arriva, il Real Madrid arriva comodamente a ottobre. Vabbè, invece quindi, di spendere i soliti 100 milioni, spenderà 200-300. Fa come il Barcellona, che ne prese 8 in un'estate: Rakitic, Luis Suarez, Vermaelen, Bravo, Ter Stegen, li prese tutti. Mathieu. E rifece, e ha fatto la squadra che adesso sta dominando il mondo. Quindi. Esatto. Però una cosa io mi chiedo: ma è strano che siano colpiti solo club spagnoli, no? Non vi fate questa domanda? È abbastanza. Abbiamo le giovanili delle squadre italiane, steppe di africani, e questi come arrivano? La domanda è lecita, la domanda è accolta. La legge è chiara, ovviamente fatta la legge ho trovato l'inganno, questo poi da noi siamo maestri, per cui campioni del mondo sempre. Però a me sembra un po' strano che si becchino solo i tre grandi club della Spagna. Sì. Lì ci sono, c'è anche una storia di ripicche, di denunce, di mano, no? Sicuro. No, no, perché la prima, tutto parte per una denuncia anonima contro il Barça. Ovviamente il Barça pizzicato, sicuramente si saranno messi in moto per porgere l'altra guancia, ovvero la guancia dell'avversario, e va bene, però a me fa parecchio, insomma, ho dei dubbi non sulla legittimità, perché sicuramente questi hanno sbagliato e devono pagare, però sì, non mi sembra che siano gli unici tre club d'Europa che hanno dei giovani nella loro cantera, nel loro vivaio. Questo è lecito, poi anche magari anche qui si metteranno in moto le gole profonde. Senti, ma se davvero il Real non dovesse fare mercato, allora Pogba può stare tranquillo. Sì. Morata può stare tranquillo per un annetto. Cristiano Ronaldo col cavolo che sta tranquillo, perché praticamente è già un separato in casa, no? Adesso con Zizou adesso c'è l'entusiasmo, quindi ragazzi qua adesso è solo entusiasmo, Zizou è la medicina per tutto, adesso ne riparleremo tra un po'. Adesso che sono incuriosito da questo cambio della Roma, vediamo qualche chance in più la Roma ce l'ha, perché se per caso la Roma butta fuori il Real Madrid, poi dopo vedrai che ci sentiamo. Ha preso Luciano Spalletti, non ha preso Harry Potter. Vabbè, però il cambio di allenatore era necessario, questo cambio farà bene, insomma, la Roma è chiaro che ha altri problemi cosmici, quasi come Florentino, però... vediamo se sarebbe bello, ma sarebbe una sorpresona interessante. Ma sono un po' italiano. Preoccupati a Madrid del cambio. No. Mi lascio immaginare. Non ci dormo la notte, no, però... Beh, ragazzi, Spalletti a Madrid, insomma, li ha buttati fuori una volta, almeno per memoria storica. Io scelgo, 2008, Filippo. Il 5 marzo, questa volta siamo all'8 marzo di torno, quindi anche le date coincidono. Attenzione. E poi c'è questa statistica meravigliosa, che voi già mi avete, no, mi avete fatto un quiz una volta, sul fatto che l'ultima volta che una squadra italiana è stata eliminata da Real Madrid... era nell'83 o no, 87, il 87, Napoli, sì. E da allora per 9 volte a doppia sfida siamo passati noi. Poi facciamola valere, no? Questi numeri, queste statistiche varranno per qualcosa. Ma c'è anche la ben nota la legge dei grandi numeri, no? Esatto. Cosa dici? Ma no, ma lo so, si scherza, è chiaro che Madrid è super favorito e tutto, però... Senti, vediamo ma che succede, vediamo... Chi prendono adesso... a Zidane? Chi regalano a Zidane? Dipende, se possono fare il mercato, si parlava di Atta. Beh, adesso, ora. Allora, adesso no, adesso nessuno. Adesso gli lasciano questo rompicapo irrisolvibile che si chiama Real Madrid. Ma è inutile prendere altri giocatori. Già i sei posti davanti sono occupati, cosa vogliono prendere? Un altro giocatore e poi devo soldo, capito? Cioè, qui se entra uno, deve uscire un altro. Prendere dei panchinari è inutile, per cui per il momento va bene così. Florentino è convinto che questa sia la squadra più forte del mondo, non la può allenare lui. E quindi niente, per ora no, a gennaio non prendono nessuno, a meno che non abbiano davvero paura, ma non, niente, no, rimangono così, rimangono la squadra meno equilibrata del pianeta, più adesso così. Vediamo, conta che adesso domenica c'è qua, arriva qui lo Sporting Gijón, che ha solo 8 sconfitte nelle ultime 10, quindi prenderà tra i 6 e gli 8, no? Sì. E quindi più entusiasmo ancora. La medicina Zisù, che, no? Questa vitamina Z spettacolare, e andiamo avanti così. Per ora è euforia. Poi vedremo. Grazie, Phil. Alla prossima. Ciao, Filippo Maria Riccia. Alla prossima, che visto come vanno le cose a Madrid, sarà prestissimo. Stretto giro di posta con Guillaume che vince 2-0 al Bernabeu e scatta la pagnolata. Bah. David Brescia, buongiorno. Buongiorno, salve. Io vorrei parlare due cose veloce. La prima è riguardo alla Juve, che praticamente la Juve e l'Inter vogliono prendere due trequartisti, nel senso l'Inter vuole Soriano e la Juve un altro qualsiasi. Ma io da un po' di tempo, un po' di anni, vedo che comunque i trequartisti nelle grandi squadre non ci sono più, perché alla fine Messi è un 10, ma è un 10 sì, comunque. Però Soriano non è un trequartista. Soriano è un giocatore diverso. Io lo vedo più come trequartista. L'altra cosa è riguardo comunque ai giornalisti, al calcio in generale, magari è la radio anche sbagliata da dirlo, ma il Sassuolo, no? Che fa un bel calcio e tutti applaudono, ma io mi ricordo che comunque un anno De Francesco è stato esonerato e poi l'altro anno voleva prendere più Pizzaghi, cioè è tutto comunque. Vabbè, per carità, poi però ha preso Di Francesco. Il Sassuolo è forte, divertente, bello. Di Francesco è un emergente. Io credo che l'anno prossimo avrà la chance di giocarsi una panchina un po' più importante. Ecco, l'unica cosa è che il Sassuolo è provinciale soltanto per collocazione geografica, perché ha dietro una forza imprenditoriale e un progetto e un budget che sono superiori a quelli delle altre provinciali, cioè dimentichiamoci di fare l'equazione Sassuolo-Carpi, Sassuolo-Frosinone, Sassuolo-Chievo, perché il Sassuolo è un'altra cosa. Non dimenticarti che il Sassuolo nel momento in cui ha fiutato aria di retrocessione nel mercato di gennaio ha rivoluzionato la squadra. Ha cambiato 10 undicesimi, poi si è salvata e da lì è cominciata questa storia che ci porta a considerare a tutti gli effetti il Sassuolo, come dice perfettamente Giovanni Capuano, una squadra ormai della borghesia del calcio italiano. Abbiamo il traffico, poi c'è Riccardo da Pistoia. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, tanto per cominciare, mi dicono che è arrivato Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo. Ciao Pier. Ciao. Stiamo parlando di varie ed eventuali, come ad esempio mercato del Real Madrid, Il fatto che ti puoi programmare le prossime vacanze estive, perché da oggi sappiamo che il campionato parte il 21 agosto e finisce il 28 maggio, ma non quelle invernali, quelle invernali a Natale vabbè, ma c'è il tempo, ragazzi, sono appena finite. A Natale? A Natale non hanno deciso. Non hanno deciso. Sarebbe ora. Guarda, è passato a Bodi qui mezz'oretta fa. Adesso non so se è ancora dentro. Comunque, sai che a Bodi è stato l'uomo che ha creduto in questa scelta. Tra l'altro, poi c'è un problema di associazione calciatori. Il problema dovrebbe riguardare sia l'A che la B. Cioè, non è che adesso i calciatori di Serie A debbano avere, dal punto di vista sindacale, più diritti di quelli della Serie B di andare alle Maldive. Io, sapete come la penso? La penso che a Natale si dovrebbe giocare. Sono con Sarri, sono un po' meno altri. Un po' meno flessibili quelli di Serie A. Sì, un po' più potenti, ma è un po' più complicata. Però, come diceva Bodi, il tema è: io gliel'ho chiesto e gli altri no. Io gli ho presentato un progetto e gliel'ho chiesto, facciamo la pausa dopo, e gli altri evidentemente non l'hanno fatto. E vi spiego anche il perché, che poi tra l'altro le vacanze costano meno, no? fuori periodo, evidentemente quelli di gennaio fantastico, però non hanno problemi economici. Però sicuramente sì, a Capodanno costa di più partire, questo non ci sono particolari dubbi. Allora, parliamo un po' con gli ascoltatori. Riccardo da Pistoia, buongiorno. Sì, salve, buonasera. Io mi volevo rilasciare al discorso di Spalletti che arriva alla Roma, che al di là, diciamo, delle valutazioni, delle considerazioni che avete fatto voi di tifoseria, e non entro nel merito, ma dal punto di vista prettamente calcistico, io credo che la Roma, come anche altre squadre, l'Inter, la Fiorentina, che all'inizio del campionato insomma sono state anche decantate come gran bel gioco, ed è anche vero, ma fondamentalmente non hanno la struttura e non hanno, diciamo, la qualità per poter ambire allo scudetto. Ma io farei un distinguo, Riccardo, farei un distinguo, perché la Roma, se adesso verrà messa a posto sul mercato, e se verrà messa a posto, al di là delle parole di Spalletti, come condizione fisica, la struttura per vincere lo scudetto ce l'ha, a differenza della Fiorentina, del Milan e di altre squadre, perché la Roma può stare benissimo nel quartetto di testa con quelli che ci sono, Inter, Napoli e Juventus. Sono convinto di questo. Io non sono uno di quelli come per esempio invece Cruciani, che considerava la Roma grande favorita per il titolo, però sicuramente la Roma ha delle qualità che la mettono nel gruppo delle squadre che lo possono vincere. Adesso il ritardo comincia a essere pesante, soprattutto la tendenza al peggioramento clamorosa, e è difficile pensare che Spalletti possa recuperare così rapidamente. Bisogna capire soprattutto se la velocità di recupero, no? Il tempo in cui la squadra bisogna capire anche Roma Verona, da questo punto di vista è un'ottima partenza potenzialmente, ma sicuro. Però c'è la Juve, e quindi è già un test decisivo. È chiaro che se la Roma dovesse anche vincere contro il Verona, perdere contro la Juve, il ritardo secondo me aumenterebbe quasi chiaro, questa matematica. Però Pierluigi, prima si stava discutendo sulla scorta delle parole di Spalletti con Giovanni, lui ieri si è premurato di dire: la squadra sta benissimo fisicamente, non c'è nessun problema, e quindi, come sottolineava Capuano, o Garcia ha raccontato delle palle, oppure si tratta di una dichiarazione aziendalista. Questo lo scopriremo a strettissimo giro di posta. Ripeto, è anche un po' debole. Con Liguori parlavamo di Capello. Capello non si sarebbe mai prestato, credo, dopo 2 ore di allenamento, a una presa di posizione così netta. Visto che tutti abbiamo gli occhi, e insomma la Roma fisicamente magari non è un disastro, ma di sicuro non è in condizioni ottimali, Pier. No, ma la Roma non è in condizioni ottimali. Il problema della Roma è che non era in condizioni ottimali della seconda metà dell'anno scorso con il vecchio preparatore, e non è in condizioni ottimali adesso con i nuovi preparatori americani voluti dalla società, che sappiamo sono stati in qualche modo anche un modo per commissariare Garcia. Sì, sì. Questo questo va riconosciuto a Garcia. Il problema è sostanziale e formale, cioè confermare un allenatore ma cambiargli i preparatori da un lato gli crea un problema dal punto di vista pratico, e dall'altro è una forma di delegittimazione della sua leadership, quindi il problema era grosso. Probabilmente una scelta che era covata fin dall'estate, poi in realtà si è realizzata a gennaio. Il peccato originale è questo. Perché secondo me, se dovevi fare questa scelta, al momento migliore era dopo Roma-Bate. sì, Roma sì. Bate, che era una partita che, nella quale Roma ha passato il turno, però giocando malissimo. E poi avevi la pausa di fronte, e esatto. Poi avevi delle condizioni diverse. La scelta ottimale sarebbe stata quella di portare fino in fondo la decisione, quando già in estate Garcia era chiaro che non era mal sopportato. Laura, Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto rispondo al tifoso dell'Inter che vuole il centrocampo della Roma, che se ci dà Handanovic e Muriglio ci possiamo stare. Perché, visto il De Rossi di questi anni, insomma, penso che ci andremo a guadagnare. Sì, Handanovic e Miranda, io direi. Poi anche Muriglio, però Handanovic e Miranda subito. Diciamo un paio. Sì. Per quanto riguarda poi questa gestione da Borgo Rosso dell'esonero di Garcia, chiusa con la perla del tweet della società, è arrivato Spalletti, tifosi correte ad abbonarvi a poche ore dal invece tweet molto garbato ed elegante dell'ex allenatore, e più che di un commissariamento estivo, secondo me è stato un modo di spingerlo all'esonero. Non hanno avuto il coraggio di cacciarlo, hanno aspettato che se ne andasse lui, togliendogli praticamente tutti i suoi punti d'appoggio. Beh, ma lui non se, con un contratto fino al 2018 lui non se ne sarebbe mai andato. Sì, non è che facendo se ne è benissimo, comunque, cioè, chiariamo anche questa cosa. Noi riteniamo tutti che tra qualche mese, e glielo auguriamo, sia su qualche altra panchina, però ad oggi è lì col suo contrattone pesante che 2018. Ha fatto riflettere tanto Pallotta e ha anche forse ha fatto ritardare il momento dell'esonero. Sì, questo certo mi sembra anche un'eccellente ragione, anche perché alla voce allenatori la Roma finirà per spendere diversi soldini. Sì, decisamente, ma ci sono tante cose che non trovo in questa vicenda, sicuramente il tweet, insomma, che è un tweet di Mark. Insomma, non c'è nulla di così drammatico, però non è un tweet bellissimo, diciamo, dal punto di vista, secondo me, dello stile. Devo dire che Garcia invece ha mostrato un grandissimo stile da questo punto di vista, ma poi il calcio ha una forza incredibile che è la sua semplicità, e quindi il fatto che si lega clamorosamente ai risultati, per cui se adesso Spalletti riuscirà abbastanza rapidamente a sistemare la situazione, tanto però siamo curiosi di vedere di contare gli spettatori sugli spalti dell'Olimpico domenica con il Verona, ci sarà un po' di entusiasmo, ma è credo sia normale, perché tu comunque dici? Ma io penso proprio di sì, perché comunque è un inizio, ed è un inizio, un nuovo inizio di una stagione che non è ancora tutta da buttare via. Insomma, ma ci sono ancora le barriere in mezzo alla curva domenica, sì. Le barriere in mezzo alla curva e quindi il tema dovrebbe essere più o meno identico a settimana scorsa. Sì. Allora, però questo, perdonami, esistono magari due... arriva qualche fischio in meno, questo no, sì. No, esistono due però... aspetti, esiste la curva e esiste il resto del pubblico. Esiste il tema legato alla divisione della curva, dove abbiamo parlato mille volte, sai come tra l'altro ieri c'è stato anche uno striscione fuori dal Colosseo, quindi non è finita questa manifestazione. E io trovo, al di là di tutto, assolutamente rispettabile l'idea che persone che si sono abbonate, quindi magari hanno pagato un biglietto, però per una forma di coerenza e di protesta decidano di disertare lo stadio, ovviamente finché, ed è successo così, lo fanno in maniera pacifica. Questo è quello che penso, e questa è una dinamica che chiaramente non è cambiata con gli Spalletti. Poi però esiste il resto del pubblico, quello che ultimamente è sembrato abbastanza disamorato invece per i risultati della squadra, e lì io mi aspetto che, insomma, ci sia un effetto Spalletti, perché sicuramente è una iniezione di entusiasmo, di speranza quantomeno. Beh, certo, è un voltare pagina quando avevi una squadra che non ti offriva più speranze. Stefano Treviso, buongiorno. No, è caduto Stefano da Treviso. Vabbè, ma tanto dobbiamo fare. Comunque, l'effetto nuovo allenatore l'abbiamo misurato l'anno scorso con Mancini, perché secondo me le due vicende sono abbastanza simili dal punto di vista della traiettoria. Quindi, un esonero che alla fine è tecnico, ambientale, di risultati e tutto. Arriva il nome che deve essere di grande richiamo per la piazza. A me risulta che l'anno scorso, alla fine, l'Inter, che aveva sempre la campagna abbonamenti aperta con varie formule, non l'ha chiusa per tutta la stagione, non è che avesse avuto poi questo grande effetto sui tifosi. Non lo so, magari la Roma va diversamente, purtroppo sicuramente Mancini aveva riportato un po' di entusiasmo. Poi i risultati l'anno scorso non sono stati all'altezza, e quindi hanno in qualche modo cancellato o diminuito questo entusiasmo. Quando è arrivato, sicuramente dopo la famosa pioggia di Mazzarri, c'era aspettativa, ma ripeto, è normale, è la cosa più logica del mondo. Il calcio vive di speranza, ma questo a mille livelli. Io mi ricordo il Napoli in Serie B, a un certo punto, nella gestione Naldi, assolutamente con la rassegnazione del pubblico, sì. E poi invece va in Serie C, quindi teoricamente in una serie inferiore, però arriva De Laurentiis e da lì c'erano 50.000 persone per Napoli di Pesaro, quindi certo. Al tifoso devi dare prospettive e la sensazione che si sta facendo tutto il massimo possibile per onorare la maglia e per fare le cose fatte bene. Poi è ovvio bisogna vedere anche come evolve questa situazione. Ci sentiamo subito dopo il GR, ragazzi. 800240024 numero verde, siamo qui. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Tutti convocati. Torniamo dunque con Giovanni Capuano, che è qui con me, Pierluigi Pardo al telefono, gli ascoltatori all'800240024, parleremo anche di mercato, ma prima voglio farvi sentire le voci di stretta cronaca, cioè hanno parlato ovviamente alla vigilia delle rispettive partite Atalanta-Inter e Napoli-Sassuolo, Sarri e Mancini, Mancini e Sarri. Partiamo dall'allenatore capolista, quello del Napoli. Non ce ne può importare di meno. Cioè, nel senso, Bonucci fa il suo lavoro, io faccio il mio lavoro, e che la Juve era favorita, io l'ho detto in tempi non sospetti, e quindi non penso che dietro ci siano grandi giochi strategici. Era palese la Juventus fosse la favorita, con 4 scudetti consecutivi, 3 supercoppe, una Coppa Italia, la finale di Champions, un budget nettamente superiore a tutte le altre squadre italiane, e quindi è chiaro è la favorita per il titolo. E tra l'altro sono anche una società che quando spende bene, e quindi è chiaro che loro sono favoriti per il titolo, nonostante che abbiano fatto una partenza non di grandissimo livello, però è la squadra palesemente più forte della squadra favorita. Palesemente, questo dice Sarri, è cominciato il balletto delle pressioni. Ovviamente il non ce ne può fregare di meno era riferito alle parole di Bonucci, che aveva detto sono a Napoli, sono favoriti, hanno vinto il titolo d'inverno, sono primi della classe, eccetera eccetera. Sì, poi ha detto che Sarri stava facendo un po' il furbo, esatto, a scaricare le pressioni, e Sarri ha fatto rimbalzare la palla. Sì, Sarri ha ragione, cioè, la Juve oggi è palesemente favorita secondo te? Beh, per me è un duello Juve-Napoli, però è chiaro che quando, non essendoci una distanza di 5 punti o di 8 punti o di 10 punti, ma una distanza minima, considerata la storia della Juve, l'abitudine a stare lì, è chiaro che Sarri fa un discorso condivisibile e vero. Poi io credo che il Napoli sia, lo dico ormai da 3 mesi, da 4 mesi, dopo quel Napoli-Lazio, credo che il Napoli sia una grande realtà, e penso che Sarri dice queste cose, ma poi lavora con i giocatori sull'autostima dicendogli l'esatto contrario. Sì, che possono farcela, che hanno la possibilità di farcela. Secondo me hanno la possibilità di farcela. Sarebbe matto. Però, se non facesse il ragionamento di Sarri anche quelli della Juventus giocano a scarica pressione. Questo mi pare normale. Ha parlato anche Mancini, sempre sul capitolo Juventus, rimonta della Juve, e poi quanti benedetti punti servono per acchiappare sto scudetto, Mancini? Io credo che non ci sta in testa per, non so, 16 partite su 19, non so quante volte siamo stati, quindi non è una casualità. Se ci siamo stati vuol dire che ce lo siamo meritati. E per quello riguarda la Juve, io lo dicevo anche quando la Juve era a 9 punti, che sarebbe rientrata, perché la Juve ha una squadra molto più forte, quindi avrebbe fatto sicuramente un ciclo di vittorie importante per rientrare. Io ho anche detto che la classifica in testa poteva variare una domenica, una squadra, una domenica l'altra, quindi queste sono cose normali, ci sono 19 partite, noi, come ho detto prima, bisogna che siamo, dovremmo essere così bravi da avere la stessa concentrazione, la stessa forza che abbiamo avuto in tutto il girone d'andata. E questo era Roberto Mancini. Intanto stavo leggendo una notizia, Immobile convocato, un altro dei grandi ritorni settimanali per la partita di domani col Frosinone, non mi sorprenderei di vederlo in campo al primo minuto con la maglietta numero 10. Non convocato invece per ragioni tecniche Maxi Lopez, che è uno degli scontenti del Torino. Cioè, Quagliarella, cui tra l'altro è stato appena rinnovato il contratto, appunto, è stato appena rinnovato il contratto, però è uno degli scontenti e lo sappiamo, si vede tutte le volte che mette il broncio in campo. A questo punto, sì, però il dato a cui lui è stato appena rinnovato il contratto, cioè secondo me è quella la notizia, Pier? Sì, sì, insomma, però non lo convochi per scelta tecnica. Sì, sì, e compri poi un attaccante importante come Immobile. Esatto. Ma Immobile, è chiaro che Immobile torna, gioca e segna pure. Sì. È ovvio che è una, non è sorprendente. Maxi Lopez stamattina l'ho visto sui giornali, veniva dato da molti come probabile titolare. A questo punto cambiano chiaramente le gerarchie. Il Toro ne ha un paio scenari di troppi davanti, perché ha anche Belotti, che non è un investimento banale. Sì, sì, il Toro ha tanti attaccanti ma segnano poco. Sì, no, ha per tanti carità attaccanti ma segnano poco. Quindi io ancora a Quagliarella darei continuità, in questo la penso come Cairo. Cioè, penso che Cairo l'ha perdonato e i tifosi lo perdoneranno, perché credo che Quagliarella abbia una storia comunque e una qualità possano essere molto utili al Torino. Sì. Anche se sicuramente quelle scuse lì non sono piaciute al pubblico, adesso non rientriamo per la recensione. No, la nostra campagna. Certo, esultate. Facciamo dei 5. Contro ex squadre, contro ex fidanzate, contro parenti, amici, anche se date un dispiacere calcistico, esultate. Liberate la vostra assolutamente gioia. E non sentitevi in colpa, perché questo è un tipo, no, un tipo di malcostume che secondo me deve essere combattuto. Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Di paura in molti casi, secondo me, è immotivata. E il tifoso intelligente, il tifoso vero, capisce, secondo me. Ma poi paura di che? Paura di che? Sei andato via, gioca in un'altra squadra. Paura, voglia di non mettersi dentro la polemica, no? Poi chiarimento, no? Perché la famosa esultanza di Destro in Bologna-Roma è stata stigmatizzata per il motivo opposto. Ci può essere una misura, ci può essere un rispetto del tuo ex pubblico, però nel momento nel quale sei felice perché hai fatto un gol devi esultare. Secondo me è assurdo togliersi questo piacere, toglierlo ai tuoi stessi tifosi. Chiaro. E toglierlo allo spirito del gioco. Sì, il gioco sì, del momento nel quale noi consideriamo che una partita di calcio, se nel momento nel quale c'è una partita di calcio devi pensare che una partita di calcio valga tutta la vita, mentre la stai vivendo valga una vita intera. Devi pensare che quei 90 minuti ci sono vita e morte dei tifosi e dei giocatori, quindi tutto ciò che in qualche modo toglie invece questa enfasi, secondo me, va in una direzione contraria. Abbiamo in linea, così apriamo anche un capitolo mercato, oltre a Giuliano dalla provincia di Avellino e Pasquale da Como, aspettate un attimo, abbiamo in linea Fabio Parisi, uno dei procuratori di punta del nostro calcio. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. Stavamo parlando... mi interessava il discorso che stavate facendo adesso. E cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo. Il fatto di non esultare all'estero lo definiscono bullshit, di una parolaccia. Mi sembra una sintesi, traduciamolo, no? Mi sembra una sintesi perfetta. Una mancanza di professionalità, come il malcostume che c'è in Italia, il giocatore che va a fine contratto, non lo faccio più giocare, lo punisco. Ma no, perché? Squadre che non lo faccio più giocare, lo punisco, direttori, presidenti, lo punisco, poi sono loro i primi ad andare in giro a cercare giocatori a fine contratto e magari a bloccarli un anno prima per queste cose. Sì, sono sì, veramente sì, delle sì, cazzate, mi permette di dire questa parola, che fanno del male al calcio. Ma calciatore professionista... nel momento stesso in cui gioca, se gli scala il contratto, se non gli scala il contratto, è un professionista, quindi deve esultare come se la sente, come ha sempre fatto, né più né meno. Ti è mai capitato di dirlo a un giocatore? Ti è mai capitato? Di dire a un giocatore queste cose? Cioè di dire a un giocatore fa il bravo? Ma io ne parlo sempre, soprattutto per i ragazzi giovani, che sono quelli che poi escono dalle primavere e devono cercare di togliersi quelli che sono i malcostumi del calcio in Italia, dei professionisti del calcio in Italia, e cercare di educarli nel rispetto di quelle che sono le regole dello sport, fondamentalmente, pur essendo un professionista, quindi diventa un lavoro, ma è pur sempre uno sport che, come tutti gli sport, dovrebbe avere delle regole ben precise. Purtroppo ogni tanto diventa un gioco e, come in tutti i giochi, si può bleffare, si può fare qualsiasi cosa che non sia lecita. Invece lo sport dovrebbe avere regole ferree, soprattutto morali. Purtroppo questo non avviene. Non sempre. Volevo dire qualcosa, Pier? No, io volevo, quindi apprezzo e quindi mi considero arruolato nella nostra iniziativa per quanto riguarda il discorso delle esultanze, ma può essere utile fare un po' di comunicazione da questo punto di vista. Cioè, io ho la sensazione che spesso poi i giocatori lo facciano così per un malcostume, per un'abitudine, per evitarsi, no, una possibile polemica. Sì, ma lo fanno per paura a volte, perché no, invece pensano di offendere qualcuno. Invece, secondo me, un calciatore che è stato il mio idolo, che adesso gioca contro di me, che fa gol, fa un bel gol, esulta, io lo rispetto molto di più di un calciatore che è stato il mio idolo, gioca contro di me e non esulta se ha fatto gol. Magari in un mondo ideale lo applaudi pure. In un mondo ideale. Ma sì, oppure lo fischi. Arrivare a applaudirlo lo fischi perché è forte, perché è bravo, perché ha fatto il suo dovere. Lo fischi, ma in Italia poi, no? Cioè, bisogna eliminare dal calcio la cultura del tifare contro, che questo è il male più generale del calcio italiano. Ma su questo possiamo parlare. Si tifa per la propria squadra, sì. Non si tifa contro l'altro. Ma su questo possiamo aprire un capitolo diverso. Questo possiamo è vero, parlare per dei io sono in un certo senso abbastanza favorevole al gufismo in certi casi. Dubito che ieri a Barcellona si siano disperati per i problemi del Real Madrid. Dubito. No, capisci una cosa. Lo spottò ci sta, questa cosa ci sta. Io non voglio sentire i canti devi morire quando si fa male un avversario. Non è questo. Però c'è anche ci può essere anche un sano tifo contro il sano corvismo. No. Ma certamente, la rivalità ci deve essere, però deve essere rivalità sportiva, non deve essere rivalità. E io la rivalità sportiva nasce nel momento stesso in cui io faccio il tifo per la mia squadra più forte e più intenso di quanto fa il tifo del mio avversario per la sua, ma non tifo contro gli altri. Non ha senso per me questa logica, purtroppo sono una mosca bianca e quindi parliamo di mercato che è meglio. Ma parliamo di qualunque cosa qui, è il luogo ideale. Parliamo ad esempio di che cosa penserebbe Fabio Parisi se fosse il procuratore di Maxi Lopez, perché io sono molto interessato a questa cosa. Cioè, appena rinnovato il contratto prendono Immobile fuori per scelta tecnica. E già non è contento. Se fossi il presidente di Maxi Lopez, il presidente, il procuratore di Maxi Lopez, due domande te le faresti, no? Sì, me le farei, però ripeto, sono un professionista, ho il mio contratto, sono state fatte delle altre scelte, e mi sta bene. Nel momento stesso in cui ho firmato il contratto, sì, può darsi che, però lo sapeva il mondo che il Torino stava trattando Immobile, quindi... queste erano delle altre cose. L'ho preso il mio contratto e mi metterò a disposizione. Se non giocherò andrò via a fine anno, questo non è un problema. Intanto però ho messo il contratto, contratto che di questi tempi a volte è molto meglio averlo che non averlo, dipende poi da che anche non solo di questi tempi giocatore. Semmai dal punto di vista del Torino sembra una cosa un po' illogica. Sai, queste no? sono cose particolari. Ripeto, nasce dal chiamiamolo un malcostume, chiamiamolo da una brutta interpretazione che fanno in Italia del giocatore che va fino a contratto. Il giocatore che va a fine contratto è professionista fino a un secondo prima che gli scade il contratto. Se no non è professionista neanche se ha un contratto di 5 anni. Allora facciamo questa valutazione. Il giocatore, io vedo all'estero, c'è un giocatore a fine contratto che firmano già, annunciano che se ne vanno. Guardate Guardiola. Ci sono allenatori Guardiola, che fanno il triplete da esonerati. Guardiola ha annunciato che se ne va dal Bayern Monaco, ma non credo che i tifosi del Bayern Monaco, i dirigenti del Bayern Monaco dicono no, tu allora te ne vai, non ti faccio più allenare perché remeresti contro il Bayern Monaco. Ci sono già passati con Heynckes. Sì, Fabio, molto si lega al fatto, a questa anomalia che nasce dopo Bosman, che esistono i parametri zero. Ah, è vero, esistono i free agent, sono sempre esistiti a tutti i livelli. Lascia stare che il calcio prima di Bosman era la preistoria, adesso è ancora un po' meno la preistoria. Però uno è, ripeto, o una persona è un professionista, intendendo la parola professionista a 360 gradi, o non lo è. Se lo è, io sono convinto, se reputo un mio calciatore, fosse il presidente della squadra, un professionista... va in scadenza di contratto, perfetto, ne trovo un altro al tuo posto se non vuoi restare da me. Sì, però sono convinto che nel momento stesso in cui tu resti da me, dai il 100% di quello che dai, se no avevo sbagliato a prenderti prima. Sì. Punto, senti, basta. Anche perché poi questo comunque porta a una forma di fatichismo, nel senso che in realtà si scatena una specie di guerra di posizione, per cui io non ti convoco, no, non ti chiaro. Faccio giocare poco, perché spero che tu a quel punto possa rinnovare il contratto con me per non perderti a zero. Ma se lo voglio rinnovare lo rinnovo appunto, in altro intanto, modo. Intanto, se voglio rinnovare il contratto, intanto deprezzi il giocatore, intanto... deprezzi il giocatore, ma tanto va via parametro zero, ma intanto più che altro io non lo sempre usi, detto perdi, ai miei assistiti. Lo paghi senza usarlo. Io ho sempre detto ai miei assistiti e ho sempre avuto ragione in questa cosa. Io ho avuto calciatori che con 2 anni di scadenza andavano nel panico, Dio mi scala il contratto, rinnovo. Sono sempre quelli che hanno guadagnato meno. Quelli che hanno guadagnato tanto nella loro vita sono quelli che hanno avuto la forza di andare fino all'ultimo minuto, ma all'ultimo minuto facendo vedere che tu mi devi pagare di più perché io sono meglio di tutti gli altri che ci sono in zona, avete capito? E sul mercato. Quindi tutti i calciatori che hanno avuto la forza di andare verso la scadenza del loro contratto sono quelli che hanno sempre guadagnato di più, sì. Però hanno dovuto comportarsi in un certo modo, quello che ha non ti faccio certo. giudicare se non lui con grande professionalità. No, è una questione di professionalità da ambo le parti, Giovanni. Bravo. Fabio, parlando di giocatori che sono a un bivio importante, che fa il Sharawi? Alla fine accetta di stare al Monaco, accetta di rientrare al Milan, no, dove c'è una fila lunga così. Ha bloccato tutto. Sia per non giocare. Beh, però sai, Galliani ha detto se non va via Cerci qua non rientra. Assolutamente, fare un discorso di questo tipo. Quindi il Milan lo riporterà, cercherà o di trovare una soluzione interna qualora parta Cerci, qualora parta un altro giocatore, se reputeranno il Sharawi, o di trovare una soluzione sul mercato che permetta di fare... non credo sia possibile in questo momento una cessione definitiva, ma di fare i 6 mesi sì, in una squadra di non deprezzarlo. Tale quale ma secondo te è più adatto lui o Perotti per Spalletti? C'è un'età differente. Secondo me è Sharawi che fa tutta la fascia più di Perotti, perché ricordiamo che gli esterni di Spalletti non erano degli attaccanti. Se rifà il 4-2-3-1, se gioca con i 3 esterni, con 2 esterni e un centravanti, e Sharawi va bene. Se gioca come seconda punta, credo che la Roma, se giocasse con un trequartista, una seconda punta, potrebbe avere certo Totti o Pjanic come trequartista, Dzeko, e forse andrebbe cercato un attaccante con delle caratteristiche diverse. Beh, potrebbe giocare Salah. Meno esterno e più seconda punta. Può giocare Salah. Io penso che la Roma vada verso il 4-2-3-1, penso. Perché comunque Spalletti credo che consideri ancora 4-2-3-1, vai a sacrificare un pochino il centrocampo, nel senso che porteresti, avanzeresti piani, giocheresti con Nainggolan probabilmente De Rossi. Ma intanto io credo che alla fine avanzeresti Florenzi probabilmente sulla linea degli esterni. Io penso che la Roma cerchi 3 giocatori, penso che cerchi un terzino sinistro, penso che cerchi un centrale di difesa perché non c'è soddisfazione sul rendimento di Rudiger, e penso che sia un giocatore duttile, attaccante esterno che possa fare l'esterno nel 4-2-3-1. Beh, in questo modo esterni ne ha, perché bisogna vedere cosa fa Gervinho, sì. Bisogna vedere cosa fanno Gervinho, penso che partirà. Gervinho partirà e Adriano arriverà, perché leggo ora che è stata avviata ufficialmente la trattativa con il Barcellona per questo giocatore che dovrebbe arrivare alla Roma. Un'ultima cosa che chiedo a tutti e due, Fabio Parisi, ovviamente anche a Giovanni Capuano e a Pierluigi Pardo. Un Napoli, sto seguendo le vicende del Napoli, uscirà in uscita De Guzman, è andato via Enrique, insomma hanno fatto qualche movimento in uscita, però leggo 2 nomi, Kramer e Maximovic. Con questi 2 giocatori il Napoli farebbe un gran bel salto, Pierluigi. Ma sì, allora in difesa secondo me è difficile togliere il posto alla coppia Koulibaly Albiol. Io penso che il Napoli complessivamente debba pensare soprattutto a irrobustire la rosa, perché ha 3 competizioni, perché l'Europa League è una competizione che va onorata, che gioca il giovedì e che può togliere delle energie. Non dimentichiamoci che nel periodo di febbraio-marzo, che è un periodo fondamentale per il campionato, l'Europa League gioca il doppio delle partite della Champions, perché scarica quel turno in più, quindi tu hai su 5 settimane 4 partite importanti, pesanti di giovedì che possono poi cambiarti la stagione. Quindi io penso che al Napoli servono soprattutto dei ricambi per aumentare la per allungare della certo per allungare se è David la rotazione Lopez, o anche lo stesso Valdichiori, che ha faticato un po' il primo cambio pronto ad entrare al primo raffreddore di Allan o di Jorginho, si può trovare qualcosa di meglio. Certo. Per quanto riguarda la difesa, stesso discorso, ma non credo che adesso, sinceramente, Maximovic, soprattutto ha avuto un infortunio per tutta la prima parte della stagione, abituato a giocare più a 3 che a 4 nel Torino, io non penso che arrivi subito e tolga il posto a Koulibaly. No, quello no. Credo però che sia un giocatore che piace. Fabio. Il problema di Maximovic è semplice, che credo che Cairo non lo venda adesso. Se lo deve vendere adesso, cioè Cairo adesso credo che voglia 25 milioni di euro, perché se lo volete adesso me lo dovete pagare di più. Perché secondo me i 20 milioni che offrono per adesso il Napoli, si dice, o altre situazioni, li trova anche in estate, al mercato estivo, quindi non ci sono grossi problemi, anche per poi dovrebbe andare a sostituirlo, sono tante, credo che Maximo sia tanto. Il Napoli ha bisogno, giustamente, perché le partite saranno tante, di completare la rosa, ha bisogno forse un centrocampista d'utile che possa giocare magari in più posizione, al posto di Ala, al posto di Jorginho, per dare un certo turnover nel momento in cui ci saranno tante partite da giocare. Kramer potrebbe essere, anche se leggo che ci sono delle dichiarazioni del suo agente che dicono che non è che abbia tanta voglia di spostarsi da Leverkusen, e un difensore probabilmente per completare la rosa. Poi ripeto, se c'è l'opportunità per prendere un difensore che poi possa far parte dei piani del futuro del Napoli anche l'anno prossimo, sarà fatto, se no si vedrà di completare magari con un rincalzo, ma uno che possa fare qualcosa di diverso. Giorgio De Luca vuole assolutamente sapere dove va De Guzman. Stiamo facendo delle trattative all'estero, credo che una delle nazioni più probabili sia lo Sporting. Lo Swansea in Premier League. Grazie Fabio, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao Fabio Parisi. Ciao. Abbiamo il tempo con Pierluigi Pardo di America Buono di rispondere a Giuliano dalla provincia di Avellino e Pasquale da Como, che sono lì da un secolo. Li ringrazio intanto e gli do subito la parola. Giuliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Senta, io volevo parlare della situazione della curva della Roma, perché io vivo una situazione un po' particolare. Io sono campano, lavoro a Napoli, però da sempre tifoso della Roma. Beh, io sono circa 2 anni che non vado allo stadio, non vado più in curva sud, in seguito anche a minacce da parte dei tifosi della Roma. Prima insulti, poi anche, siamo passati a un livello successivo, e quindi io penso che nella situazione dello sciopero del tifo ci siano anche, dei lati meno chiari, un po' più scuri. Non so voi cosa ne pensate di questa cosa. Cioè, tu ci stai dicendo che non puoi più andare in curva, non vai più in curva perché c'è chi decide che gli altri non devono andare, questo che ci stai dicendo? Sì, esattamente. Io le prime volte mi dicevo napoletano questo, napoletano quell'altro, no, eccetera. Non è che racconti qualcosa di diverso da cose che capitano in tante curve, per via dell'origine, in pratica. Questo sarebbe molto grave, molto triste, quindi... però ripeto, questa adesso è una testimonianza inquietante che raccogliamo, e che secondo me poi le minacce sono un pochino più circostanziate, il consiglio è di riferirlo a chi di dovere. Certamente è molto triste qualsiasi forma di discriminazione, quindi l'idea che uno, siccome non è nato a Roma ma è nato a magari a 20 km o 30 km da Napoli, non sia un vero tifoso della Roma. No, ma poi c'è lo strascico delle questioni della notte tragica della finale di Coppa Italia. Sì, ma io credo sia un discorso diverso, che sia un rapporto tra che vale per la Roma e per la Lazio, tra le tifoserie e le due società. Pasquale da Como, abbiamo ancora un minuto. Sì, pronto. Io volevo semplicemente, intanto buongiorno, fare un elogio alla Juventus. Io sono più che un tifoso, non sono sportivo, perché dopo Calciopoli è rinata la grande, e credo che saranno tempi ottimi per la Juventus, e invece vedo tempi cupi per le milanesi, sono molto cupi. Ma per l'Inter magari no. Mangiano una 15 anni rispetto alle milanesi, sicuramente. Insomma, la Juventus ci ha messo qualche anno, ha speso diversi soldi per ricostruirsi. Rispetto alle milanesi non credo, perché almeno l'Inter, il Milan è un discorso diverso. Andiamo a chiudere qui. Ciao Pierluigi, sentiamo domenica. Ragazzi. Ciao. A domenica. Domenica, Domenica 17-19. E abbiamo, insomma, noi entriamo che è appena finita la prima fatica di Spalletti, quindi avremo la risposta sulla tenuta fisica della Roma, e anche se gioca col Verona. E starà uscendo dal campo la Juventus, dal prato di Udine, nel nuovo stadio completato, nel Dacia, come si chiama? Dacia Friuli Stadium. Dacia Friuli Stadium. Perché c'è il latino torna sempre, insomma. Vabbè ragazzi, grazie Giovanni Capuano, grazie a te. Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Aureggi in regia, Federico Binda in redazione, ci sentiamo domenica, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.